investire informati. Allora, prendo il microfono in mano della trasmissione adesso, perché siamo al Salone del Risparmio, lo abbiamo ricordato più volte, e abbiamo avuto davvero, possiamo proprio dirlo, l'imbarazzo della scelta per i temi da approfondire qui in occasione di questa edizione 2016 del Salone del Risparmio. Allora, come ricordava anche Nicoletta in apertura, il titolo dato a questa edizione del Salone è Risparmio al centro, demografia, liquidità, sviluppo. Abbiamo anticipato tutte le declinazioni di questi argomenti proprio la settimana scorsa in una puntata di anticipazione del Salone con Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni. Avevamo descritto uno scenario, quello attuale, che è super sfidante per i piccoli risparmiatori che si trovano a dover fare delle scelte in un contesto che non hanno mai conosciuto in precedenza: tassi di interesse ai minimi, prospettive di ripresa economica molto grigie, peraltro una condizione che è stata proprio rimarcata pochi minuti fa dal ministro Padoan, che è ospite di questo salone, e ha detto la ripresa è più debole delle attese, nonostante le misure particolarmente aggressive di politica monetaria, la ripresa è sotto le attese più debole di quello che l'hanno preceduta. Per cui, oltre a questo, i risparmiatori affrontano anche le tematiche legate all'attuale evoluzione demografica e poi il tema della concentrazione del patrimonio in capo alle generazioni più mature. Questo è esattamente il focus che vogliamo fare oggi, quello sulla concentrazione della ricchezza delle famiglie detenuta dai risparmiatori senior. Si calcola però che nei prossimi 15-20 anni il 65% della ricchezza finanziaria passerà nelle mani dei millennials, gli under 35 di oggi, che sono cresciuti con una delle più lunghe crisi economico-finanziarie della storia recente. È chiaro dunque che l'industria del risparmio e del risparmio gestito debba saper parlare a entrambe queste categorie. Allora, per affrontare questo tema oggi noi abbiamo invitato due dei relatori che saranno coinvolti in tante delle conferenze che animeranno questo salone. Intanto ringrazio Diego Martone, presidente, fondatore e amministratore delegato di Demia Studio Associato. Buongiorno. Buongiorno. Stiamo parlando del primo istituto italiano specializzato in indagini generazionali nel settore economico-finanziario, e poi è autore del libro I nuovi dei dell'Olimpo dei consumi alla conquista dei millennials. Biglietto da visita, corretto? Perfetto, grazie. Sentiamo se lo faccio altrettanto correttamente per il professor Luigi Guiso. Intanto benvenuto, grazie. Salve, grazie. Allora, titolare della cattedra AXA. Io vorrei tentare di dirla in italiano questa carica. Lei si occupa di finanza domestica sostanzialmente, perché se dovessimo, lo so che banalizzo molto, tradurre in italiano household finance, in realtà il concetto è un po' abbastanza vicino a questo, per l'istituto Einaudi. Poi le faccio per specificare meglio. È anche autore, lo sta presentando proprio in occasione di questo salone, di Attenti a quei soldi, difendere le proprie finanze dagli altri e da se stessi, ma i lettori del Sole 24 Ore la conoscono molto bene perché lei è autore della rubrica settimanale Il Punto su Plus 24 del Sole 24 Ore. Ma qualche precisazione sulla competenza accademica mi piacerebbe che la fornisse ai nostri ascoltatori. Si chiama Household Finance, ma definisce il complesso e lo studio delle scelte del risparmiatore. Anziché chiamarlo risparmiatore o consumatore risparmiatore, è stato chiamato household, perché in genere le scelte vengono condivise all'interno della famiglia, c'è il marito, c'è la moglie, in genere vengono prese assieme, anche se non necessariamente, come dire, metà e metà, vengono condivise, però in genere c'è qualcuno che conta di più, e spesso è il maschio ad avere un peso esorbitante. Anche se io le devo dire, esatto, che per il mio libro ho analizzato questo fenomeno e le dico che c'è una parte del mio Donne di Denari in cui i consulenti finanziari mi dicono che non c'è foglia, che lei non si muove foglia. D'altra parte, in realtà la donna ha un peso decisionale. Se non vogliono sbagliare devono sentire noi. Sono professore. Io sono d'accordo. Insomma, le generalizzazioni non possiamo farle, però insomma magari a seconda degli studi si emerge un'evidenza diversa. Detto questo, noi oggi non ci occupiamo di donne, ma anche di donne, ci occupiamo di risparmiatori senior e dei millennials. Allora, intanto cerco di coinvolgere i nostri ascoltatori stamattina all'800 24 00 24. Siete un risparmiatore con esperienza, quindi senior, perché l'anagrafica dice questo. In che cosa ritenete di avere particolare esperienza sul tema del risparmio? Come valutate le capacità dei giovani di gestire le loro risorse? Chiaramente dovete raccontarci un po' quello che succede in casa vostra, quindi con figli e nipoti, qual è la relazione tra voi loro e il denaro complessivamente, dando per scontato che sappiamo bene che la propensione al risparmio delle giovani generazioni in questo momento è un pochino ridotta, compromessa. Allora, professor Guizzo, ma i risparmiatori senior chi sono esattamente? Chiaramente non vorrei restringere solo il campo alla condizione anagrafica. Abbiamo qualche dato in più per chiarire meglio il profilo di questo risparmiatore? Ma, diciamo, sicuramente l'età è la prima cosa che viene in mente ed è la cosa più, più naturale. Ovviamente, oltre all'età anagrafica, conta anche un altro tipo di età, cioè il numero di anni di esperienza che una persona ha maturato nel gestire le proprie finanze. Talvolta si inizia presto, in alcuni casi si inizia molto più tardi, mm-hmm. perché si inizia quando si ha un gruzzolo da amministrare, quando si ha una decisione finanziaria da prendere. Non tutti iniziano con la stessa tempistica, certo. Molto spesso questo dipende dal momento in cui si entra nel mercato del lavoro, oppure dal fatto di ricevere un'eredità e quindi una massa di denaro, di risorse finanziarie da amministrare. L'esperienza conta, perché è lo strumento e il medium attraverso cui gli individui imparano. Fintanto che non maturi, non tocchi con mano, non prendi decisione, difficilmente puoi imparare. Ovviamente, diciamo, andare a scuola, prendere lezioni di finanza, leggere il mio libro aiuta, ma non se è se ce ne lascia sufficiente. Uno, noi oggi molto magari lo regaliamo all'ascoltatore che magari ci rilascia la... Certo. L'esperienza, la considerazione più interessante, naturalmente rispettando le considerazioni di tutte, quella che a nostro insindacabile giudizio sarà la più interessante di stamattina, ovviamente il professor Guizzo ci rilascia gentilmente il suo libro, ma io poi ruberò anche quello di Martone, perché anche quello vorrei regalare, possibilmente, perché siccome ci interessano tutte le sfaccettature sociali di questo problema, e quindi saremo molto liete anche di poter fare questo. Martone, stiamo parlando di uno scontro generazionale che riguarda il risparmio? Ma non direi uno scontro, direi che sono due strade molto diverse. Sicuramente, come diceva il professore, la clientela senior che ha in mano in questo momento la ricchezza, la parte preponderante della ricchezza, sappiamo che nel risparmio gestito l'età media dell'investitore è 58 anni e stiamo andando anche verso un invecchiamento della popolazione, no? Da qui al 2050 avremo un'età media che passa dal 44 anni a 49,5, con un terzo della popolazione avrà più di 65 anni. Il sistema previdenziale conosce molto bene questo tema e sta cercando di affrontarlo in qualche maniera. C'è una dilatazione proprio di tutta la società, e i giovani in realtà restano giovani per più tempo, no? Quindi ormai si parla di millennials, vengono considerati giovani, ma si parla di persone che raggiungono anche i 30-35 anni, quindi hanno addirittura già dei figli, e l'evoluzione è sicuramente contraddistinta da momenti di vita, come diceva il professore, cioè finire il percorso di studio, entrare nel mondo del lavoro è sicuramente una discontinuità molto forte, molto pronunciata, ma la differenza è, e su questo è interessante vedere come sia i giovani che i senior percepiscono questa differenza, è che non c'è un percorso lineare, cioè mm-hmm. le vecchie generazioni avevano in mente una strada, studio, comincio a lavorare, esco di casa, mi compro la casa, faccio dei figli, magari prendo una seconda casa, poi i figli si emancipano, escono, arrivo alla pensione. Bene, i giovani hanno un percorso completamente diverso, frammentato, fatto di microtappe e di reversibilità. Cioè comincio a studiare, esco di casa, faccio l'Erasmus, torno, rientro a casa dei genitori, bravo. Poi vado a convivere, magari faccio poi un figlio, ma non è detto che lo faccia con la persona con cui sarò tutta la vita. Famiglia allargata, è andata male, torno nella casa dei genitori, perdo il lavoro, oppure termina il periodo di lavoro, faccio dell'ulteriore formazione, mi riqualifico. Anche in questo caso non è una formazione di tipo lineare, ma accumulo nel mio zaino, continuo a mettere nuove competenze all'insegna del perché no, imparo anche a fare fotografia, ma perché no, potrebbe servirmi, imparo una nuova lingua, perché no, grandi viaggiatori, grandi contaminazioni culturali, certo. Anche enogastronomiche. Nelle scelte di risparmio, di investimento e di progettazione per il futuro, per garantirsi un adeguato tenore di vita quando possibilmente si andrà in pensione, tutta questa frammentazione della vita vissuta, in sostanza, come incide, Martone? Ma incide molto in questo momento, perché i giovani millennials vengono etichettati anche come affetti da presentismo, cioè un focus estremamente forte sul presente, su qui e ora e oggi. Quando intervistavamo questi giovani dicevamo: va bene, hai dei risparmi, qual è il tuo orizzonte temporale? Parlavano di mesi, nemmeno di anni, certo. E quindi la loro concentrazione è sull'oggi, su qui e ora, e non è assolutamente proiettata su un risparmio di lungo periodo, anche perché non c'è una capacità reddituale. quello che è interessante è che i senior, cioè i genitori e i nonni, vedono questa cosa e ne sono ancora più preoccupati, certo. Hanno dei livelli di ansia estremamente più alti e stanno modificando le proprie strategie di risparmio. Allora, vorrei chiedere ai nostri ascoltatori se si ritrovano in queste considerazioni, se oggettivamente stanno vedendo questo cambiamento nelle giovani generazioni, che è evidente, è un fatto ineluttabile, e quanto e come sono preoccupati da questo, anche del fatto di non potersi fare carico completamente delle necessità future dei propri figli, come magari è capitato a noi, che forse siamo stati aiutati in maniera anche un po' troppo qualche volta dalle generazioni appunto che ci hanno preceduto. Cuore e denari. Padre, occhi gialli e stanchi, nelle sopracciglia il suo dolore da raccontarmi. Risparmiamo meglio o peggio dei nostri padri e delle nostre mamme? I più giovani come risparmiano, come si stanno preparando a farlo? Ne stiamo parlando questa mattina a Cuore Denari, qui in diretta dal Salone dei Risparmi, edizione 2016. Allora 800 24 00 24, condividete le vostre considerazioni con noi. Siete un risparmiatore senior, stiamo parlando questa mattina anche di quella che è stata ribattezzata come la silver economy, l'economia dei fili d'argento, mi viene da dire. E poi, in che cosa ritenete di avere particolare esperienza sul tema del risparmio? Come tentate di trasferire la vostra attitudine, le vostre esperienze anche alle giovani generazioni, a quella generazione dei millennials di cui stiamo parlando anche questa mattina, che per la verità è stato oggetto del Salone del Risparmio lo scorso anno, mentre quest'anno si è scelto di focalizzare appunto l'attenzione sui senior. Ho ricordato un po' per appunto uno, il numero verde, giustamente l'anno prossimo chissà chi toccherà. C'è un ascoltatore che scrive con una vena un po' polemica: vedo per esempio, parlando di noi, una trasmissione rivolta ad over 45enne in cui parlate dei giovani come bizzarre creature che pascolano nei vostri giardini. Non pensavo di aver dato un'immagine così negativa della gioventù. Martone, colpa di Martone. Non credo sia colpa mia, purtroppo c'è una parte dell'opinione pubblica che tende a vedere questo. Ci sono stati, vi ricordate, Padova Schioppa con i bamboccioni, certo, Ciusi detti della Fornero. In realtà secondo me non è così, vengono etichettati così, vengono descritti così, ma invece al loro interno ci sono delle eccellenze sicuramente, certo, molto grosse. C'è da dire che storicamente nel nostro paese una persona di 25 anni non è considerato un manager di successo, come per esempio invece accade negli Stati Uniti. Cioè il signor Mark Zuckerberg ha fondato Facebook a 20 anni e ha trovato chi ha creduto nella sua idea e l'ha finanziato, e come lui tanti altri. Da noi è molto rallentato questo tipo di dinamica e quindi tanti vanno anche alla cosiddetta, certo, fuga dei cervelli. È un mercato un po' meno che Renzi vuole fare tornare, che no? Crede, esatto, un po' meno nella libera iniziativa. I ragazzi fanno più fatica, devono andare in banca a presentare i loro progetti, la banca finanzia con grande difficoltà se non arrivano con il dovuto carico di garanzia. Anche questo è un altro tema grandissimo che magari affronteremo in un'altra. Vengono anche considerati iperspecializzati. Esatto, a volte l'ipercompetenza diventa un altro problema. Per cui ecco qua, queste sono le bizzarre creature, Diego, delle quali parlavamo questa mattina. Poi c'è un'altra riflessione anche per il professor Guiso. Un ascoltatore ci scrive, parlando della modalità con cui investono i senior: per investire io guardo le aziende che mi danno fiducia per il loro programma di sviluppo nel futuro. Né nel suo libro, Attenti a quei soldi, difendere le proprie finanze dagli altri e da se stessi, nel capitolo in cui si occupa di diversificazione del risparmio, tema sul quale insistiamo tanto con gli ascoltatori che spesso fanno l'errore di mettere tutte le uova in uno stesso paniere, tema del quale lei parla lungamente in questo capitolo, in realtà questa modalità è quella di Warren Buffett, quella che suggerisce l'ascoltatore. Poco ma buono, non fa tutta questa diversificazione, però dipende. Cioè Warren Buffett, così come pochi altri, è vero che investono in poche aziende non perché si fidano, ma perché le hanno studiate e hanno capito che investire in quell'azienda, e quando investono comprano quando l'azienda è sottovalutata e guardano il potenziale di crescita. Quindi diciamo c'è moltissimo lavoro di comprensione e di analisi, e hanno una straordinaria capacità nell'identificare la prospettiva di crescita dell'azienda. Non è che si fidano così, l'hanno studiata e riescono a discriminare aziende che hanno grossissimo potenziale da aziende che invece diciamo hanno un profilo di crescita piatto. Dopodiché mettono i soldi in quelle, le monitorano molto attentamente, certo. Quindi è un po' il contrario di chi si affida e poi non controlla. Questi è vero, hanno portafogli molto concentrati ma molto molto molto seguiti. E che è l'atteggiamento, diciamo, dell'investitore professionale. Noi forse abbiamo un po' meno capacità di poter fare un lavoro. Infatti nel libro, esattamente guardando a questo caso, dicevo, questo qui è una strategia per investitori iper sofisticati. Certo. Imitare Warren Buffett non è per me, che diciamo me ne occupo, in genere non è per la maggior parte della gente, è la bottom line del capitoletto del libro, e per noi l'unica strategia è diversificare. Certo. Allora, sono pronti i due ascoltatori, sì, che hanno raccolto molto volentieri il nostro invito. Comincerei con la linea 4. Pietro da Bologna, allora. Pietro, benvenuto, grazie. Buongiorno. Ci racconti un po' la sua esperienza. Ah, la mia esperienza che è molto interessante, le parole che state dicendo, che praticamente me le faccio anche mie, perché nella mia vita lavorativa ho dovuto superare con l'esperienza anche delle difficoltà. Voglio dire che sono partito a 20 anni sposato e non avevamo una lira, bisogna cominciare a macinare e cominciare a pensare come risparmiare. E siamo riusciti nella nostra vita ad avere una gruzzoletto, diciamo, discreto, una vita agiata, eccetera, eccetera. Quello che mi sorprende, che vorrei dire ai giovani, è l'esperienza che ho avuto con mio figlio. Io operavo in borsa negli anni 80 e mio figlio cresciuto voleva anche lui togliersi la passione della borsa e praticamente l'ho lasciato sbagliare in questo senso qua, le spiego in 2 secondi. Quando ha detto io compro, non ero del parere, ho detto vabbè, per imparare bisogna anche sbagliare. Ha comprato 4 fiscali a 1.200.000. Vabbè, insomma, stiamo parlando proprio della new economy all'inizio del 2000, l'ha fatto sperimentare. Adesso, con quell'esperienza ha imparato a mettersi la testa sul collo, nel senso che ragiona molto e cerca di scandagliare quello che è l'investimento più giusto, e devo dire che ha 38 anni e ce la cava discretamente bene. Abbiamo fatto parecchi meeting con le varie banche in giro per il mondo, per addirittura il trading online, eccetera eccetera. Grazie Pietro. Allora, 38 anni, intanto un pochino fuori dai millennials, è uscito fuori da questa categoria da millennials, è tardivo il figlio di Pietro. Pietro contro suo figlio, tra virgolette. Professor Guiso, qual è il bisogno informativo di un senior? Poi a Martone faccio spiegare invece qual è quello del millennial. Il bisogno informativo, questa è una buona domanda, ma credo che tutte e due hanno bisogno di raccogliere informazioni più o meno generalizzate, con una differenza, cioè le persone senior, diciamo le persone che sono molto vicine o che hanno già deciso di andare in pensione, quindi diciamo contano molto per la sopravvivenza successiva su quello che hanno accumulato in passato, certo. Mentre diciamo per uno che sta all'inizio della propria vita, di risparmi accumulati ne ha molto molto pochi, davanti, se lavora, ha una prospettiva di redditi da lavoro. Quindi i rischi sono molto diversi, quindi il bisogno di informazione, quel tipo di rischi monitorare è molto diverso. Nel caso di una persona senior, la cosa peggiore che gli possa capitare, se ha investito in borsa, è un crollo di borsa, perché perde i soldi. Oppure l'altro rischio che da cui deve guardarsi è l'altro rischio disastroso, è che quei soldi glieli fregano. Quindi, le banche risolte di recente eccetera, qualcosa di molto per uno giovane questo tipo di rischi sono sostanzialmente poco importanti, perché a rischio diretto di perdita in borsa ha molto poco come volume. Il grosso della sua capienza finanziaria è il valore di reddito del lavoro che guadagnerà in futuro. Il rischio grosso è la perdita del lavoro. Quindi diciamo i due tipi di disastri, il tipo di informazione di cui hanno bisogno, su cui concentrarsi, sono disastri finanziari, crolli borsistici, truffe finanziarie per le persone più senior, per le persone che hanno accumulato più soldi in passato, e il rischio della perdita del lavoro, di essere dislocato, di non riuscire a ricollocarsi nel caso dei giovani. Martone, condivide questa impostazione? Le chiedo anche di aggiungere un tema che a lei so è molto caro, quello del linguaggio. La finanza parla molto male di se stessa, spiegarla, tradurla a beneficio anche dei nostri ascoltatori ogni giorno per noi è un lavoro improbabile, difficilissimo, sul quale ci sforziamo molto, però ancora il punto d'incontro è difficile da trovare. In che cosa la finanza deve parlarmi meglio per farsi capire da tutte queste generazioni di cui stiamo parlando questa mattina, ma in particolar modo per i giovani, che comunque devono sensibilizzare, anche se hanno la vita frammentata, appunto, che lei spiegava prima, devono comunque sensibilizzarsi di più e attivarsi fin da ora per il loro futuro. Sì, vi è molta autoreferenzialità, purtroppo, in nella finanza, questo campo, sì, è vero. Sì, nella finanza, e lo dicono anche gli operatori, che hanno materiali a supporto a volte difficili da spiegare o burocraticamente pesanti. Senta, facciamo una cosa, è talmente bella questa riflessione, faccio il traffico, poi la faccio ricominciare fra 30 secondi. Cuore e denari. Ultimi minuti di tempo per Cuore Denari in diretta questa mattina dal Salone del Risparmio, la prima di tre giornate ricchissime di ospiti per noi. Allora stiamo parlando un po' dei, ancora una volta, dei temi del risparmio, come stiamo così un po' esplorando questo che abbiamo ribattezzato uno scontro generazionale, anche se poi questo concetto non va bene, fra i risparmiatori senior e gli millennial. Praticamente questi senior cominceranno a trasferire la loro ricchezza alle nuove generazioni, sperando naturalmente che queste siano nelle condizioni di poterla gestire bene per il loro futuro e quelle che verranno ancora. Ma parlavamo in realtà della questione del linguaggio, la finanza, come parla a queste generazioni i cui bisogni sono profondamente cambiati, soprattutto negli ultimi 10 anni con questa crisi finanziaria dalla quale non riusciamo a venire fuori. Allora, Diego Martone con noi questa mattina. Sì, quindi dicevamo, il linguaggio deve essere sicuramente semplificato, ma quello che è molto importante è capire che le fonti informative sono completamente diverse per i senior e i giovani. Chiaramente i giovani, nativi digitali, questa generazione che ha nella rete la propria memoria, qualsiasi cosa deve sapere, non la cerca dentro di sé, ma sa che può andare a recuperare lì. Ecco, attenzione, per quanto riguardano temi finanziari, economici, di risparmio, di denaro, la rete è soltanto un supporto. Che cosa fa un giovane quando deve decidere come investire o come risparmiare? Si rivolge in casa, ai propri genitori, al network amicale dei genitori, al consulente storico della banca, dando loro un'esperienza, come diceva il professore, non tanto una competenza, perché dicono sì, sono più bravi di me, però in realtà non è che hanno studiato, ma hanno un track record, e quindi vanno poi a parlare con dei colloqui faccia a faccia con i consulenti. Ma attenzione, non decidono ancora, li tornano in casa, né riparlano con i genitori, in quanto gli unici detentori del loro interesse, senza una seconda agenda, senza fini commerciali, vogliono solo il bene dei figli, e quindi si fidano e procedono in questo modo. Viceversa, i senior hanno in mente il canale bancario barra assicurativo. Quando si parla di previdenza è molto più il canale delicato, assicurativo. Sì. E, usano anche loro il canale digitale, quindi c'è una contaminazione tra i due, sebbene l'offerta non tenga conto di questo. Le app delle banche sono sempre una, unica per tutti, per i giovani a cui magari è troppo poco quella app, per gli anziani o per le persone più avanti che magari è troppo complicata, e si aiutano gli uni con gli altri, quindi c'è uno scambio dove la parte digitale è competenza dei giovani, e quindi la prima generazione, quella dei millennials, che restituisce verso la generazione precedente una conoscenza che altrimenti non ci sarebbe, ormai è penetrata anche in questo target. Quindi diciamo che poi il linguaggio all'interno di questa cosa qui, di questa materia, che è una materia seria, importante, i giovani non hanno una versione al rischio o quantomeno alla perdita estremamente elevata, perché ho pochi soldi, non posso perdere neanche un euro. Okay? Quindi la borsa è sicuramente un grosso rischio da condividere e da studiare molto bene. L'esempio degli ascoltatori di prima era perfettamente calzante. A proposito degli ascoltatori, vi faccio sentire Luca da Prato, perché ci permette per gli ultimi 5 minuti di trasmissione di aprire un altro grande capitolo, quello del consulente a cui affidarci. Anche lì molto spesso le persone senior, junior, brancolano nel buio, perché chiaramente deve un po' parlare la pelle, deve parlare anche lì l'esperienza, ma alla luce anche delle esperienze di risparmio tradito che abbiamo visto in questi anni, a volte si scopre che anche il miglior consulente del mondo, quello che ci sembrava tale, quantomeno ci può dare, come dire, un suggerimento sbagliato. Non voglio parlare ovviamente della fregatura, perché quello è un altro tema, un altro mondo, ma insomma magari un suggerimento di investimento che non era adeguato alle nostre necessità. Luca da Prato, benvenuto. Lei, proprio per questa sfiducia un po' fatto nella vita scelte diverse. Sì, completamente. Ciao, buongiorno a tutti. Ho complimenti per la trasmissione, perché siete veramente delle grandi. Senti, io stringatamente, molto velocemente, per riallacciarmi anche a qualcosa che è stato detto, ho cominciato la mia esperienza negli anni Ottanta seguendo mio padre, perché lui aveva piacere che io, giustamente, anche se era un oltre senior, aveva questa visione del futuro in cui avrebbe, se non altro, passato qualcosa a me, o comunque voleva verificare la mia attitudine. Io ho seguito lui negli anni Ottanta, lui era un pochino, lavorava un pochino in borsa negli avanzi, nei ritagli di tempo che aveva la mattina, e ho fatto la mia formazione seguendo quello che faceva lui, ma soprattutto tenendo d'occhio i suoi errori, che per me erano determinanti, nel senso, io mettevo a confronto la mia visione del futuro, la mia visione del mondo con la sua, e mi sono accorto che c'era un gap fortissimo. Poi mio padre è morto nel 96 e io nel 96 ho cominciato a applicare quelle che erano le idee che mi ero fatto negli anni 80, cioè cercare di prendere totalmente in mano io la gestione del mio denaro, perché mi ero accorto che i consulenti, le banche, comunque tutti quelli che lavorano con i soldi tuoi, ti prendono dei soldi sia che tu abbia delle performance positive, sia che tu le abbia negative. Per cui mi sono accorto che il rapporto con i consulenti e con le banche era comunque un costo, capisci? È come andare a comprare qualcosa, certo, al supermercato. Però lei era molto responsabile, certo, chi è che non ha magari la sua pazienza, la sua tenacia, la sua preparazione e anche un po' di sua passione, Luca, deve per forza delegare ad un consulente queste scelte, questa gestione. Io la ringrazio, la devo brutalmente salutare perché non abbiamo molti minuti di tempo, però chiedo un commento ai nostri ospiti di stamattina rispetto a questa esperienza. Professor Guiso, difendere le proprie finanze dagli altri e da se stessi, lei dice nel suo libro. Gli altri sono anche gli intermediari finanziari, banche, consulenti? Sì, sono esattamente intermediari, consulenti, gestori, eccetera, eccetera. Sono tutte le persone che possono essere istituzionali o personali alle quali affidiamo i soldi e diamo delega. Quindi in questo senso c'è sempre un rapporto fiduciario. Chiediamo che gestiscano i nostri soldi nel miglior interesse nostro. Ovviamente in questo tipo di relazione ci stiamo esponendo ad un rischio, che è il rischio di essere mal consigliati, di essere distorti, che parte dell'informazione che ci viene passata non sia la migliore dal nostro punto di vista, ma in qualche maniera curi anche gli interessi dell'intermediario. Quindi diciamo è una relazione che naturalmente ha questo tipo di rischio, naturalmente ha questo tipo di frizione. Un sistema finanziario che funziona bene riduce, certo, al minimo questo rischio. Difenderla da noi stessi, perché l'altro nemico e quello che ci cova dentro sono la nostra ignoranza da un lato, e quella ci si può porre rimedio, sono le nostre caratteristiche, il fatto appunto che talvolta si è estremamente impazienti e si va contro il nostro stesso interesse. Un'industria finanziaria che funziona bene serve anche per correggere i nostri difetti, posto che appunto curi il nostro interesse anziché mettere davanti innanzitutto l'interesse, certo, l'interesse proprio. Quindi diciamo la visione che io voglio dare in questo libro, che non è un libro di ricette per arricchirsi, ma è un libro per comprendere come vivere da cittadino informato, talvolta anche facendo decisioni migliori, ma soprattutto a prendere la visione che abbiamo un interesse genuino a far funzionare bene i mercati finanziari, perché ci servono individualmente, perché ci servono collettivamente. Il tema della pazienza anche ci piace molto, perché ho notato anche, noi abbiamo fatto questo percorso nel corso dell'ultimo anno e mezzo che si chiama Investire Informati, abbiamo potuto cogliere molti errori strategici che molti risparmiatori fanno, che si lasciano ovviamente spaventare per esempio dal mercato che scende molto, avendo investito magari in un fondo di investimento azionario 2 mesi fa e andando a monitorarlo ossessivamente ogni giorno, perché cercano di trarre ovviamente vantaggio e guadagno da quell'investimento, non capendo che invece quello è proprio un investimento che ha bisogno di respiro, martone, lungo periodo, quello che hanno per fortuna è il grande vantaggio dei giovani, il tempo davanti a sé. Sì, e aggiungo però una cosa molto interessante secondo me a questo proposito, cioè c'è una grande domanda di alfabetizzazione, lo so, di educazione finanziaria. Qui da partono parte dei gli giovani. Stati generali, esatto, dell'educazione finanziaria, esatto, venerdì ne parleremo proprio a cuore denari. Esatto, e credo che tragga proprio origine dagli esiti della ricerca dello scorso anno che abbiamo fatto per del quale lei è molto fiero, perché molto ha scritto fiero. Molto. Cioè, no, possiamo raccontare anche che qui c'è la mostra di Scatti al risparmio. Scatti al risparmio, c'è proprio diciamo gli ultimi anni di Salone con questa iniziativa, con gli scatti fatti dai giovani che raccontano il risparmio. E quindi c'è domanda da parte dei giovani, domanda da parte dei senior, ma attenzione anche da parte dell'industria, anche consulenti e promotori finanziari chiedono a gran voce, perché è utile anche a loro. lavoro, avere dei cittadini e dei consumatori che sanno di quello di cui si sta parlando e si può portare il livello a un livello superiore. A patto che però l'industria cominci a comportarsi in maniera un pochino più etica, noi di quelle cose che continuiamo a raccontare non vogliamo più sentir parlare, né di obbligazioni subordinate collocate in maniera del tutto poco trasparente fra le persone, né di bond Cirio, Parmalat e quant'altro. Insomma, qua gli esempi che potremmo fare sono infiniti. Quello che possiamo fare per concludere è raccomandare la lettura dei vostri libri ai nostri ascoltatori. Attenti a quei soldi, difendere le proprie finanze dagli altri e da sé, del professor Luigi Guiso, che ringrazio per essere stato con noi. Grazie. E poi i nuovi dei dell'Olimpo dei consumi alla conquista dei millennials, di cui invece è autore Diego Martone. Solo online, perché è un ebook. Meglio, così ci fa risparmiare, il resto lo possiamo risparmiare a proposito in qualche soluzione. Allora io le faccio consegnare una copia del libro e lei mi dice qual è il lettore o l'ascoltatore. Volentieri, che magari possiamo darlo all'ultimo ascoltatore che ci ha chiamato, l'ascoltatore di Prato, molto volentieri. Grazie ad entrambi. Noi torniamo domani dal Salone del Risparmio. Nicoletta, buonissima giornata, vi aspettiamo domani sempre alle 10:30 per questa 3 giorni investiti bene.